Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Mattino. Questo è l'unico paese dove una parte politica passa da due regioni a 5 per gli avversari a 4 a 3 per se stessa, e si fanno i processi per questa parte politica che è passata da 2 a 4. Siamo fantastici. Qui sento parlare di rafforzamento di Zingaretti, ma le percentuali bulgare che c'erano fino a pochi anni fa in Emilia-Romagna e Toscana da parte del Partito Comunista o PD o PDS, come si chiama, ma ve le ricordate? È inutile che Di Maio continui a vantarsi di aver vinto il referendum, il sì, di italiani hanno votato così, eccetera. Questo referendum era uguale, come dire agli italiani: volete abbassare il prezzo della benzina? È normale che vincevano i sì. Allora, sul primo punto, quello dell'ascoltatore che diceva in realtà il centrodestra è cresciuto, ma qua non si sta parlando specificatamente del centrodestra in generale, Si sta ragionando sulla leadership di Salvini, che è insidiata da una parte internamente da Luca Zaia, anche se tutti negano ovviamente, per carità, ma già sui giornali trovate, ci arriveremo tra un attimo, un po' di dettagli sui processi interni che si preparano sulla scelta dei candidati. E per quanto riguarda il ragionamento sul PD o sull'ex PC che prima aveva percentuali bulgare, ragazzi, è un'altra epoca, ma ce ne siamo accorti che è un'altra epoca, è un altro mondo, è tutto diventato contendibile, tutto è diventato contendibile. E in più c'è una questione di aspettative. Se crei aspettative come queste... A parte il fatto che io aspetto la sera del 21 per contare i voti veri, e saranno sorprendenti anche in campagna. E se dovessi fare un pronostico, quello che mi pongo come obiettivo è di 7-0. Quindi non, se puoi sognarlo, puoi farlo, e ci stiamo lavorando. Se crei aspettative come queste, poi finisce 3-3 e dici: vabbè, forse qualcosa ho sbagliato. Questo è... mi pare sicuramente un ragionamento da fare. Poi sì, certo, le Marche passano al centrodestra, ma non passano con un candidato della Lega. Attenzione, passano con un candidato dei Fratelli d'Italia. E certo, c'è l'unità del centrodestra, ma non è detto che la leadership resti quella. Cioè, qua non si sta mettendo in dubbio il risultato positivo per il centrodestra, si sta ragionando sulla leadership di Salvini. Per quanto riguarda il centrosinistra è la stessa cosa. Le aspettative erano che per una battaglia durissima sia in Puglia che in Toscana, no, in Toscana Gianni ha preso 10 punti in più, altrettanto Emiliano in Puglia, basta, finita là. Ed è in questa chiave che Zingaretti si rafforza, ancora una volta internamente, soprattutto all'interno del Partito Democratico, anche se bisognerà vedere cosa succede nelle prossime ore. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, martedì 22 settembre, sono le 7:24 minuti e 30 secondi, la parte è dedicata alla rassegna stampa. Se volete, come sempre, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci. Tra poco parleremo alle 7:45 con il vice ministro all'economia del Partito Democratico, appunto, Antonio Misiani, e poi avremo altri ospiti della Lega, di Italia Viva, che è quella che viene accreditata come il partito che ha subito la botta più forte. Regioni, il PD ferma Salvini, è il titolo della Repubblica. Stravince il sì, il voto blinda il governo Conte, è il titolo della Stampa. Il voto dà respiro al governo, quello del Corriere della Sera. Il voto rafforza il governo, il Messaggero. Come vedete, tutti sulla stessa linea. Fallita la spallata, governo più forte, il Quotidiano Nazionale. Spallata fallita, il titolo del Giornale. Sì al taglio e pareggio, è il più morbido titolo di Avvenire. Sì, avete perso, titola il Fatto Quotidiano, con le foto di Salvini, Renzi, De Benedetti e il Can. Libero, Mattarella sciolga le Camere, non sono più costituzionali perché sono stati tagliati i parlamentari, dice Libero. La Verità, vincono tutti, perde solo Renzi. Il Sole 24 Ore, che dedica sì un titolo importante alle regionali, Toscana, Puglia al PD, finisce 3-3, sì al referendum, più forti governo e maggioranza, e però il titolo forte in apertura è dedicato a quella che è la vera grande partita in arrivo, e di questo anche parleremo con Misiani tra poco. Fondi europei, l'Italia tra sviluppo e declino, le vere emergenze, il titolo dell'editoriale del direttore Fabio Tamburini, esattamente, sui soldi europei. In arrivo sui soldi del Recovery Fund di Next Generation EU. Infine il Manifesto è che dedica la foto a Rossana Rossanda, scomparsa l'altro ieri. Una grande storia è il titolo. E poi sì, anche le regionali, Zingaretti e Di Maio, una vittoria per due. Veniamo. Come sempre in questa parte della rassegna stampa, dato che di regionali abbiamo parlato infinitamente, torneremo a parlarne tra poco, torneremo con qualche lettura dai quotidiani. Fatemi andare su altro, almeno in questa parte della rassegna stampa. E direi che la storia che colpisce tutti è la vicenda del padre che ha annunciato la vendetta familiare su Facebook. Poi ha ucciso il figlio di 11 anni e si è tolto la vita. Il delitto è avvenuto nel Torinese, lo sapete, lo avete sentito anche in GR24. L'uomo era un operaio, aveva problemi di depressione, sono arrivate delle accuse online alla ex compagna con la quale appunto si era lasciato. La cronaca è quella di Gianni Giacomino e Lodovico Poletto a pagina 20 della Stampa. La vicenda è torinese, quindi molto si trova ovviamente su questo quotidiano. Le moto posteggiate in garage, una accanto all'altra, le due trial parallele, poi la grande Harley azzurra tenuta come una reliquia, le scatole dei Lego impilate in una stanza lì vicino, un po' il racconto di quello che si sono trovate davanti le persone, gli inquirenti, quando sono arrivati appunto nella casa di quest'uomo. Rivara, raccontano Giacomino e Poletto, è un paese che vive d'acciaio, ha lavorato nelle fabbriche che si affacciano sulla statale, un posto della provincia più profonda dove tutti sanno e nessuno parla, dove un uomo che faceva l'operaio in una di queste aziende domenica sera ha ucciso suo figlio di 11 anni con un colpo di pistola, poi l'ha abbracciato e l'ha fatta finita. Claudio Baimapoma, 47 anni, suo figlio Andrea, 11 anni, era depresso, Claudio, dicono da 2 anni o forse di più, di certo dal febbraio del 2019, quando Iris, la sua compagna, se n'era andata di casa. E adesso, se ascolti Nandina, la mamma di lui, senti una storia che fa rabbrividire. Dal giorno nel quale se n'è andata, lui è diventato un altro. E il bambino era la cosa che amava di più al mondo. Lo amava così tanto che se l'è portato via. Sono andati via insieme. L'amava, appunto, ma l'ha ucciso. Ed è questa la storia. C'è un commento in prima pagina e che poi prosegue all'interno di sulla Stampa, pagina 21 appunto, di Simona Sparaco, la quale dice: non è certo il primo genitore a togliersi la vita portando con sé il figlio che ha messo al mondo, ma è certamente il primo, uno dei primi a preannunciarlo su un post di Facebook, ed è questa finestra a offrirci la possibilità di una lettura più approfondita. Leggendo le sue parole, infatti, la mia prima reazione è quella emotiva. Penso che quasi ogni madre si possa calare nei panni di Iris, l'ex moglie, che in quel momento aspetta il ritorno a casa di suo figlio, ignara di quanto si sta per compiere. In fondo Iris siamo tutti noi, che molto spesso sottovalutiamo il male insito nel cuore di chi cade nelle fauci della depressione. Il gesto estremo che potrebbe arrivare a compiere. Claudio Baimapoma non è solo depresso, ma anche pieno di risentimento. E qui subentra un desiderio, racconta Simone Aspargo, di vivisezionare le sue parole per provare a capirlo, però c'è molto poco ed è molto difficile capire francamente quello che è successo. E per restare sulla stampa e per andare su qualcosa di diverso, c'è questo pezzo, il nostro Gianluca Nicoletti, che vi voglio segnalare perché è un po' polemico Gianluca oggi, forse non ha torto, però ve la butto là. Che cosa è successo? Che alla commissione che deve controllare le RSA, le residenze per anziani, il Ministero della Salute ha deciso di metterci a capo un monsignore. Si tratta di Monsignor Vincenzo Paglia, gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. Scrive Gianluca Nicoletti: non ci basta che il cognome del ministro in questione corrisponda a una delle tre virtù teologali. Perché a coordinare medici e scienziati è stato messo un arcivescovo? Ha pensato che solo chi ha un rapporto privilegiato con il Padre Eterno possa illuminare lo staff che dovrà riprogettare, in nome del progresso sociale e tecnologico, quello che faremo nella stagione estrema della nostra vita? Ai reprobi, cui confesso di appartenere, sembra davvero singolare, per esempio, che il professor Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, sia a sua volta presieduto da un pur rispettabilissimo signore con uno zuccotto viola che si occupa di scienza del matrimonio e della famiglia. Cosa ci può essere di scientifico nell'indissolubilità di un'unione sancita da un sacramento? Nulla, oltre il perimetro di una legittima e sacrosanta professione di fede. Solo un passaggio dell'ottimo pezzo, l'interessante pezzo, ve la butto là, poi diteci anche se volete cosa ne pensate. Di Gianluca Nicoletti, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. Ci risentiamo tra un attimo, andremo ovviamente sulle regionali e anche su quello che troviamo sul Sole 24 Ore, ossia il tema del recovery fund, dei soldi europei, della famosa occasione da non perdere. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Mattino. Cioè, governano 5 regioni su 20, sembra che siano stracontenti. Io, se fossi in loro, ci penserei un attimo, perché governano 5 regioni su 20. Mi piacerebbe in questo momento vedere ad elezioni nazionali quale sarebbe il risultato finale. Per cui adesso si discute su cosa fare, cosa non fare, ma chi decide probabilmente è una minoranza in questo momento del paese. Ciao Simone, ricominciamo a contare i giorni che mancano alla riforma elettorale? No, per carità, per carità, per carità. Oh, qualche ascoltatore dice: vuoi vedere per forza la vittoria del Partito Democratico? Ragazzi, non me ne frega niente, non me ne frega niente. Stiamo parlando solamente della tenuta delle leadership, quella di Salvini da una parte e quella di Zingaretti dall'altra, e la tenuta del governo. Del resto, che il Partito Democratico abbia tenuto rispetto alle attese, non lo dicono io, ma lo dicono moltissimi osservatori, tra cui persone più autorevoli di me come Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, che è l'editorialista che firma sempre i pezzi di politica, la quale inizia così a pagina 5: alla fine il vero risultato che contava era quello della Toscana, e lì il PD ha retto, non solo ha retto all'offensiva di Salvini e della sua candidata Ceccardi, ma con la sua vittoria ha tenuto in piedi uno dei muri portanti del governo, che si rafforza. Si potrebbe dire che il voto nella Roccaforte Rossa ha salvato la leadership di Zingaretti e bloccato una probabile corsa congressuale per sostituirlo, ma ha pure salvato la stabilità del Conte 2. Si vedrà meglio quando ci sarà l'analisi dei flussi elettorali quale sarà l'entità del voto disgiunto da parte dei grillini. Tutto bene dunque? Non proprio. Innanzitutto perché in altri tempi mai si sarebbe immaginato di una contesa nella roccaforte di sinistra, ma soprattutto c'è una discussione dentro il PD che non si fermerà. Il dilemma su dove portarlo, se è un patto strutturale con i grillini e su come ribilanciare i rapporti di forza a favore del partito che prende più voti, che a questo punto è il Partito Democratico all'interno della coalizione. Poi sulla questione delle elezioni per vedere chi se in questo momento governa una maggioranza o una minoranza, quelle ci saranno quando sarà il momento, cioè spesso accade durante la vita di un governo, poi si può discutere infinitamente, qua sono parole mie ovviamente, non di Lina Palmerini, lo dico all'ascoltatore, si può discutere infinitamente se, insomma, su come funziona questo meccanismo, però si vota e su come sono stati costituiti i governi dall'inizio di questa legislatura, però si vota, si forma un esecutivo, si forma una maggioranza e finché questa maggioranza tiene, la legislatura va avanti. Quando la maggioranza non c'è più, la legislatura finisce, a meno che non se ne formi un'altra. È scritto nella Costituzione, ragazzi. Quindi così è. L'altra leadership è quella di Matteo Salvini, a testimonianza del fatto che non è che ci stiamo inventando qualcosa qua che può aver qualche problema. Lo dimostra, se volete, questa pagina del Messaggero, che è pagina 6. È una tra le tante, in realtà molti stanno segnalando che qualche problema Salvini ce lo potrebbe avere, sia dal punto di vista interno, con la lista Zaia che fa tre volte quello che fa la lista della Lega, anche se tutti si affrettano a dire che in realtà dentro ci sono dei leghisti, e dall'altro lato la scelta di candidature come quella di Ceccardi, che forse non sono state proprio quelle con le quali si poteva conquistare la Toscana in questo momento. Dunque Emilio Pucci ci racconta di quello che è un processo interno a Salvini: due sconfitte in Emilia Romagna e in Toscana una dopo l'altra e la prospettiva di una dura traversata nel deserto con la leadership della coalizione a forte rischio, anche se nella Lega si osserva come le performance di Fratelli d'Italia siano abbastanza deludenti. Sono i fedelissimi ad invocare una svolta nel partito di Via Bellerio, perché se il capitano si limita a rimarcare che da oggi la Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 regioni su 20, i suoi non nascondono più l'irritazione per le mosse del segretario, con il governatore Zaia considerato l'unico vero vincitore, visto che la sua lista, come dicevamo, ha triplicato i consensi del partito in Veneto. E dunque, intorno a tutto questo, intorno alla questione Zaia, intorno al come sono andate le scelte per queste elezioni, si addensa un po' di tensione intorno a Matteo Salvini, tensione che riguarda anche il Movimento 5 Stelle, che crolla ovunque. Valga per tutti la pagina del Corriere della Sera, pagina 23, Di Maio che dice: abbiamo sbagliato. Chi voleva colpire il governo, inutile nasconderlo, anche il sottoscritto. La personalizzazione è la prima mossa di un colpo da Kung Fu che subito dopo tramortisce Crimi, perché se Di Maio ha vinto praticamente da solo il referendum, nella sua narrazione non ha perso le elezioni regionali. Non faccio mistero, l'ho sempre detto che potevano essere organizzate diversamente e anche per il movimento con un'altra strategia, a testimonianza di tensione e rese dei conti che potrebbero iniziare anche all'interno dell'esecutivo, all'interno del Movimento 5 Stelle. Vi voglio però portare, prima di andare alla pausa e poi di parlare con il vice ministro dell'economia Misiani, un po' di politica e un po' di cose sostanziali. Sulle cose sostanziali, all'apertura del Sole 24 Ore, fondi europei, l'Italia tra sviluppo e declino, una serie di pezzi nei quali si parla di una grande sfida che attende l'Italia nei prossimi anni tra vecchi fondi strutturali non spesi e nuovi fondi europei in arrivo. Un editoriale in prima pagina firmato dal direttore Fabio Tamburini, che si intitola Le vere emergenze. Dedichiamo 4 pagine ovviamente alle elezioni regionali, ma l'emergenza è un'altra, dice: la crisi economica e le scelte del governo per superarla. Molti aspetti spinosi, tra cui quello ovviamente delle scelte da fare con il recovery fund, e poi la tempistica. I fondi europei non arriveranno subito. Cosa accadrà nel frattempo? Come verrà superato il morso della crisi economica che sta seguendo l'emergenza sanitaria? La tradizionale manovra di fine anno risulterà adeguata alle difficoltà che stanno affrontando le imprese? Ed è con questo che si deve confrontare il governo. Il traffico a tra un attimo. Mattino. Buongiorno ad Antonio Misiani, vice ministro dell'economia, senatore del Partito Democratico. Misiani, bentornato. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, io inizierei dalla parte più strettamente politica, perché qua, a fronte di una serie di celebrazioni e di articoli anche celebrativi, Misiani, che dicono che avete vinto, che ha vinto la leadership o la segreteria di Zingaretti, abbiamo molti ascoltatori che dicono: sì, vabbè, però insomma, governano 5 regioni su 20, di cosa parliamo? Cosa dite, Misiani? Ma guardi, per noi erano elezioni molto difficili. Il Partito Democratico non ha avuto l'apporto del Movimento 5 Stelle in nessuna delle regioni tranne la Liguria. In Puglia anche Italia Viva si è presentata autonomamente. Abbiamo vinto le tre sfide più importanti e questo è un risultato che non era per nulla scontato in partenza, anzi Matteo Salvini si era spinto a pronosticare un 7-0, non è finita così e questo è un dato molto positivo insieme al risultato del Partito Democratico che con tutta probabilità, fatti i conti, potrebbe essere oggi il primo partito davanti alla Lega in queste elezioni regionali. Quindi siete soddisfatti complessivamente e a questo punto molti dicono il governo tiene la leadership di Zingaretti e tiene il governo, conferma? Ma guardi, la leadership di Zingaretti era stata messa in discussione più dai commentatori che dagli elettori del Partito Democratico. Da queste elezioni esce sicuramente rafforzata, è una leadership che esprime una linea politica di responsabilità, di serietà, nei confronti del Paese innanzitutto. Credo che questa linea sia stata compresa e apprezzata da tanti italiani. Misiani, la vorrei portare sui temi che riguardano un po' più il suo ministero e partirei proprio da quello che deve fare adesso. L'azione di governo fondamentale, non la voglio portare sui temi della legge elettorale, delle riforme, perché non ne usciamo più, non ne usciamo più, per carità, e invece vorrei portarla sulla questione del recovery fund e del fatto che, come sappiamo, questi soldi arriveranno dall'anno prossimo. Voi, già subito, già ieri, Zingaretti ha detto a questo punto attiviamo il MES. È una richiesta che il Partito Democratico continua a portare avanti, naturalmente con una certa riottosità da parte del Movimento 5 Stelle. Pensa che cambieranno idea? Ma guardi, noi siamo dei ragazzi piuttosto determinati, siamo convinti delle nostre ragioni, siamo convinti che sia necessario rafforzare la sanità in questo Paese, perché questo è il punto fondamentale. Noi abbiamo investito 8 miliardi di euro nel 2020 per aumentare i posti in terapia intensiva, per assumere migliaia di medici e di infermieri, per rafforzare la sanità sul territorio. Dobbiamo andare avanti su questa strada anche negli anni a venire. Per farlo, la linea di credito speciale del MES è sicuramente uno strumento utile, molto conveniente dal punto di vista finanziario. Tutto qua. Riuscite a convincerli o no? Ma noi speriamo che veti ideologici e pregiudiziali vengano via via superati. Le elezioni possono aiutare sotto questo aspetto, secondo lei, Misiani? Ma speriamo che sia stato colto il segnale che viene dall'elettorato italiano, che ha premiato peraltro innanzitutto la gestione della pandemia da parte di tante amministrazioni regionali. Sì. Sia di centrodestra che di centrosinistra, a dire dubbio. Il vero qua. Senza dubbio. Anzi, i governatori uscenti sono stati premiati, appunto, Paro e Zaia, Toti, lo stesso Emiliano, Vincenzo De Luca. Vincenzo De Luca che secondo lei rappresenta una sorta di contropotere all'interno del PD in questo momento oppure no? Mi scusi se torno alla politica. È una personalità molto forte che ha avuto uno straordinario successo, si è avvicinato al 70% dei consensi, ha avuto ottimi risultati anche il Partito Democratico, non dimentichiamolo, sia in Campania che nelle altre elezioni regionali, ma sicuramente i cittadini campani hanno largamente premiato il modo in cui De Luca ha amministrato e i risultati che ha raggiunto. Innanzitutto nella gestione della pandemia, voglio sottolineare questo punto, perché indubbiamente la tutela della salute è oggi al primo posto delle preoccupazioni dei cittadini ed è inevitabile che sia così. Naturalmente, quindi questo ha pesato. Il fronte del recovery fund, Misiani, venendo più strettamente a quello, ne abbiamo già parlato già da questi microfoni con il ministro Amendola, il quale ci ha detto guardate non siamo in ritardo in realtà, solo che i francesi hanno presentato un primo prospetto prima, insomma su quel fronte non c'è problema. Entro che tempi contate di chiudere con lo sfoltimento di quei 600 progetti dei quali abbiamo raccontato infinitamente e arrivare a un piano un po' più completo? Lo svolgimento è in corso e sarà assolutamente drastico rispetto ai numeri che sono circolati in questi giorni, sia dal punto di vista del numero dei progetti che naturalmente dell'entità finanziaria complessiva, che deve rimanere all'interno dei 209 miliardi che sono stati assegnati al nostro paese tra prestiti e grants, contributi a fondo perduto. E anche sulla qualità, anche sulla qualità dei progetti, spero, Misiani, perché abbiamo visto delle cose in quella lista un po' imbarazzanti. Ma quella lista è un punto di partenza, me lo lasci dire, noi vogliamo essere giudicati sul punto di arrivo, sul punto di caduta, e il punto di caduta sarà un insieme di progetti assolutamente coerente con i grandi obiettivi strategici che la Commissione europea ha assegnato al programma Next Generation EU, la transizione ecologica, la digitalizzazione, la riduzione delle disuguaglianze. E questi sono alcuni dei punti. C'è un fronte di preoccupazione, lo segnaliamo oggi, Misiani, sul Sole 24 Ore, che ha a che fare con la nostra capacità poi di spendere questi soldi. Ora sappiamo che sul Recovery Fund ci sono dei controlli abbastanza stretti, cioè l'erogazione è collegata all'avanzamento dei progetti, e però noi ci troviamo con un'Italia che tra il 2014 e il 2020 è riuscita a spendere meno di 30 miliardi dei 72 messi a disposizione dalle politiche strutturali europee, cioè meno della metà. È un fronte di preoccupazione, immagino anche vostro. State costruendo un metodo per controllare anche il modello di spesa, il metodo di spesa? È un fronte di responsabilizzazione innanzitutto. Evitare di disperdere in mille rivoli queste risorse è un primo punto per scongiurare i ritardi che in passato oggettivamente ci sono stati nell'utilizzo dei fondi europei. Meccanismi di monitoraggio saranno molto stretti e noi contiamo che riducendo drasticamente il numero di progetti si possa accelerare moltissimo rispetto ai tempi a cui è stato abituato male il nostro paese. Indubbiamente le amministrazioni centrali e locali sono chiamate a un grande cambio di passo, ma non è impossibile nel nostro paese. Misiani, avete un obiettivo? Sì, me lo lasci dire, prego. Vorrei ricordare che l'Italia è il paese che ha realizzato in un anno e mezzo il nuovo ponte di Genova. Nessuno avrebbe scommesso su questo. Misiani, avete un obiettivo sul numero di progetti, più o meno? Guardi, giudichiamo la qualità dei progetti, ma il numero sarà drasticamente inferiore rispetto alle cifre che sono circolate in questi giorni. Nell'ordine del centinaio? Potrebbe essere un ordine di grandezza. Grazie Antonio Misiani, vice ministro dell'economia. Buona giornata e naturalmente buon lavoro. GR24, ci ritroviamo subito dopo, ospiteremo un esponente della Lega, Edoardo Rixi, parleremo anche con un esponente di Italia Viva, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, avremo Alessandra Ghisleri e naturalmente tra un attimo il commento di giornata con Paolo Mieli. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.